E Marco Malvaldi sarà uno degli ospiti, degli scrittori ospiti del Salone del Libro di Torino, che si svolgerà da giovedì 12 a lunedì 16 maggio al Lingotto. Vi cito un po' di appuntamenti, così ho spulciato naturalmente nel programma del Salone del Libro che potete trovare sul web. Vi segnalo alcuni degli incontri che insomma mi sembrano più interessanti. Allora, a parte Marco Malvaldi, c'è l'incontro fra ancora Sellerio, Antonio Manzini e Alessandro Robecchi, sono due romanzieri giallisti. E i due personaggi seriali, Monterossi e Schiavone, si incontrano. Altro appuntamento secondo me da non perdere al Salone del Libro è l'incontro con Michael Cunningham, lo ricordate, insomma il premio Pulitzer di Le Ore, che verrà a presentare un libro di favole, Storia della Buonanotte, però come dire un po' dark, ritrasformate, riviste, che si intitola Un cigno selvatico, pubblicato dalla nuova casa editrice La Nave di Teseo. Altro appuntamento da non perdere è quello con Claudio Magris, uno dei veramente grandi narratori italiani che abbiamo oggi, che per Garzanti ha scritto questo libro bellissimo, Non luogo a procedere, ha molto a che fare con la guerra, con la violenza, ma anche con la possibilità di rinascere e di risorgere. Per gli amanti dei romanzi un po', come dire, romantici d'amore, vi segnalo che al Salone del Libro di Torino ci saranno la scrittrice spagnola molto amata in Italia, Clara Sanchez, con La meraviglia degli anni imperfetti, e Sara Rattaro con Splendi più che puoi. Un libro diverso dal precedente, quello di Muriel Barberi, che diventò famosa con L'eleganza del riccio. Al Salone del Libro presenta Vita degli Elfi, la storia di due bambine che insomma hanno un particolare rapporto con la natura e scoprono di avere dei poteri singolari. Per gli amanti invece del thriller all'americana, ma scritto da un italiano, Donato Carrisi al Salone del Libro si racconterà, insomma racconterà come gli vengono le idee dei suoi romanzi. E invece ancora così spulciando qui e lì per quanto riguarda dei temi più di attualità, ci sarà Domenico Quirico, il giornalista che presenterà Esodo, un libro che ha a che fare con i migranti, e ci sarà l'incontro con il premio Nobel per la pace 2003 Shirin Ebadi in occasione della pubblicazione di Finché non saremo liberi, Iran, la mia lotta per i diritti umani. E infine vi segnalo, per chi ama gli scrittori stranieri, soprattutto i romanzi un po' di avventura, l'indiano Amitabh Ghosh con Diluvio di fuoco. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti del Salone del Libro di Torino, li trovate naturalmente tutti sul sito, vi ricordo da giovedì 12 a lunedì 16 maggio al Lingotto. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo, non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus, il cacciatore di libri. Parliamo di Natalia Ginzburg. Perché ne parliamo ora? Perché innanzitutto nel 2016 sono, come dire, i 100 anni dalla nascita di questa grande scrittrice del Novecento, e poi perché alcuni giorni fa è stato pubblicato un libro con testi in parte inediti appunto di Natalia Ginzburg, che si intitola Un'assenza, racconti, memorie, cronache, pubblicato da Einaudi. La persona che cura per Einaudi un po' tutta l'opera di Natalia Ginzburg è Domenico Scarpa, che è qui al telefono con noi. Scarpa, allora, naturalmente quando arrivano insomma gli anniversari di nascita, di morte degli scrittori eccetera, è sempre l'occasione per riparlarne. Partiamo proprio da quest'ultimo libro, Un'assenza, che è diviso un po' in due parti. Nella prima parte ci sono i racconti brevi, diciamo, della scrittrice, e nella seconda ci sono molti scritti invece inediti. In base a quale criterio li ha scelti? Ma i racconti, in base al criterio della brevità, può sembrare un criterio rozzo, ma è pratico. Racconti sotto le 20 pagine, storie autoconchiuse, e anche quelle erano raccolte ben poco, perché su 15 soltanto 4 erano noti ai lettori di Natalia, gli altri 11 erano dispersi in giornali, riviste, mai ristampati. La seconda parte è ancora più sorprendente, perché sono due generi di scrittura, memorie autobiografiche, diciamo così, la parte nascosta di lessico familiare, perché in lessico Natalia racconta la storia della sua famiglia, ma lei si tiene in disparte, non si mette in mostra, non prende la luce del palcoscenico, diciamo. E poi la parte più sorprendente, forse più nuova del libro, sono le cronache, lei che racconta i luoghi dell'Abruzzo, oppure la Matera del dopoguerra in compagnia di Rocco Scotellaro visitata, o addirittura le fabbriche di Torino nel momento più crudo della opposizione sindacale fra operai e datori di lavoro, fra il 50 e il 51, cose molto insolite. Non dimentichiamo infatti che Natalia Ginzburg, oltre a essere stata una grande scrittrice del Novecento, è stata anche molto impegnata politicamente con il Partito Comunista Italiano. A proposito invece dei romanzi che aveva scritto, quando si sente il nome della Ginzburg, il primo così che viene in mente è Lessico familiare, anche perché spesso è stato magari letto a scuola, che aveva vinto nel 63 il premio Strega. Lei è d'accordo nel dire appunto che è il suo, diciamo, libro più, come dire, non dico più interessante, ma insomma quello che la rappresenta di più, oppure ci sono dei libri che conosciamo poco? Ce ne sono molti che conosciamo poco. Il libro unico di Natalia Ginzburg è Lessico familiare. È unico perché è un unicum non solo nella sua carriera, ma un po' in tutta la letteratura italiana. È unico perché è uno dei libri non solo belli della nostra letteratura del Novecento, ma è uno dei libri pochi libri memorabili. Memorabili si intende libri come Il Gattopardo, libri come L'Isola di Arturo, libri come Il Deserto dei Tartari, libri che si incidono nella memoria. Questo fa qualcosa di più, si incide nell'esperienza del lettore, cioè c'è un travaso per cui chi lo legge ha l'impressione che le memorie di famiglia di Natalia siano memorie sue proprie intime, sono libri che vengono appropriati, accaparrati dai lettori, e questo è un caso unico. Quanto ai libri meno conosciuti, io mi limito a indicarne due che sono confinanti con Lessico familiare, perché c'è un romanzo breve molto bello, forse il suo più bel romanzo breve, che è Le voci della sera del 61, e poi Le piccole virtù, che del 62, precede di pochi mesi il Lessico ed è una raccolta di scritti di memoria e di quelli che Natalia chiamava saggi morali. L'altra sera a Torino Tony Servillo ha letto appunto da questo libro, ha letto proprio Le piccole virtù, il saggio Le piccole virtù, che è stupendo. Mi fa ricordare un episodio di alcuni anni fa accaduto qui a Radio 24. C'era uno stegista che appunto era da pochi giorni qui da noi, che si chiamava Michele, e io a un certo punto l'ho chiamato caro Michele, ho detto vedi ti chiamo anche con una citazione letteraria, e ho notato però che questi stegisti, compresi fra diciamo i 25 e 26 anni, sono rimasti un po' inebetiti, cioè non avevano capito il riferimento a Natalia Ginzburg. Allora, secondo lei i 20-25 anni, anche i trentenni di oggi, conoscono Natalia Ginzburg? Ma allora, fino alla mia generazione, anche dopo, io sono del 65, quindi sono andata a scuola fra gli anni 70-80. Ecco, io del 70, quindi ho fatto quel riferimento, mi è, come dire, risultato normale dire caro Michele riferendomi alla Ginzburg. La si incontrava a ogni passo. Ora non lo so, adesso vabbè, caro Michele è stato letto e viene letto alla radio, c'è un audiolibro di Nanni Moretti, quindi magari rientra nel circuito. Natalia in genere non lo so, però certo i lettori comuni la conoscono, anche quelli delle nuove generazioni. Forse non è da generalizzare, è un problema un po' certo di tutta la letteratura italiana del Novecento, che sta attraversando un periodo di bassa fortuna. Forse anche a questo servono gli anniversari, sono, come dire, occasioni un po' finte, ma servono per ritrovare alcune cose vere, per farle circolare di nuovo. Ecco, secondo lei qual è la cosa principale che Natalia Ginzburg, dal punto di vista letterario, ha lasciato alla storia appunto della letteratura italiana? Ah, non ho dubbi su questo. La voce, l'integrità e l'interezza della voce. Un ritmo musicale che diventa quasi un ritmo legislativo, un metronomo mentale che determina le cadenze di una voce. Uno stile intellettuale in cui l'onestà assoluta dell'esprimersi diventa una cosa sottile e pietrosa nello stesso tempo. E l'impatto della sua voce, questo ha lasciato. Grazie a Domenico Scarpa, che è appunto il curatore dell'opera di Natalia Ginzburg e anche di quest'ultimo libro da poco in libreria, Un'assenza, racconti, memorie, cronaca, abbiamo detto, anche con alcuni inediti di Natalia Ginzburg pubblicato da Einaudi. E vi ricordo anche che ci sono diverse naturalmente iniziative dedicate alla Ginzburg quest'anno, all'anniversario preciso cade a luglio, però mi piace segnalarne una che è appunto in questi giorni e che si svolge a Torino, nell'auditorio del grattacielo di Intesa San Paolo. C'è un ciclo di letture appunto ad alta voce dei testi di Natalia Ginzburg. I prossimi appuntamenti sono il 10 maggio con Anna Bonaiuto, che legge alcune pagine di Lessico familiare, appunto ce l'avete sentito nominare spesso in questa intervista, e poi il 18 maggio con Lella Costa, che invece legge delle commedie scritte fra il 65 e il 91, Ti ho sposato per allegria e La parrucca. Grazie ancora a Domenico Scarpa. Grazie a voi. E come sempre è arrivato il momento di segnalarvi quale sarà il contenuto della prossima puntata di Autori, che viene pubblicata ogni martedì sul sito del Sole 24 Ore. Si tratta di un video in cui uno scrittore legge in genere l'incipit o comunque un'altra parte del suo libro e poi lo racconta a modo suo, senza, diciamo, un'intervista da parte di un giornalista. La prossima puntata di Autori, che sarà pubblicata appunto online a martedì 10 maggio, è dedicata a Emanuela Monti. Il libro si intitola Cronaca di un mancato Grand Tour, edito da Giraldi. Sentiamo allora un estratto. Non potei fare a meno di notare che il mio viaggio di formazione non assomigliava quasi per nulla a quello degli illustri grand touristi dei secoli passati e che, se davvero volevo vivere in maniera autentica quell'esperienza, cedere a qualche tentazione non avrebbe guastato. Ormai le fossette nel fondoschiena di Ada avevano sciolto le briglie della mia immaginazione erotica e finii per concludere, con bieco rigor di logica, che il sesso mi avrebbe riservato chissà quali sorprese. Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri. Vi ricordo che come sempre le avete tutte a disposizione in podcast, in archivio, radio24.it. Basta cliccare su programmi e cercare il Cacciatore di Libri e poi si trovano veramente tutte quante. Per essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter per segnalare dei libri, ma vi prego non i vostri, insomma, perché questa autopromozione non ci piace moltissimo. Però se vi fa di segnalare qualche libro che avete letto, vi fa piacere condividere con gli altri, potete sempre scrivere a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Grazie in regia a Carmelo Lauricella, da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.